cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Giorno di scuola, svegliati! Andiamo, al primo giorno di scuola! Non voglio andare a scuola, ancora 5 minuti! Ma tu, papà, io! Va bene! Alzati, c'è la scuola! Sveglio, che succede? Oggi comincia la scuola! Va bene, sono sveglio, andiamo a scuola! Siamo entusiasti, primo giorno di scuola, arriviamo, pronti ad imparare e a farci una cultura! E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati a Ma che cos'è questa estate. Iniziamo quest'ultima settimana di conduzione di questo programma, poi da lunedì prossimo si riprendono regolarmente tutte le regole del palinsesto, che più o meno poi sarà quello autunnale di Radio 24, con tutti i nuovi programmi, tutta la nuova mattinata che stiamo preparando per voi. Per quest'ultima puntata, quest'ultimo lunedì di Ma che cos'è questa estate, abbiamo scelto un argomento profondamente divisivo, se così vogliamo chiamarlo, perché, come ricorderete tutti molto bene, il tema ha appassionato sicuramente tutta la collettività. Abbiamo vissuto gli ultimi mesi all'insegna di un dibattito molto acceso sul tema dei vaccini, a seguito dell'introduzione da parte del Ministero della Salute dell'obbligo di vaccinazione, che è passato da 4 a 10 appunto vaccini per poter accedere alla scuola dell'obbligo. La misura, lo ricorderete, ha provocato una montagna di prese di posizione inevitabili e necessarie, passatemi questo commento, quelle della comunità medico-scientifica. Sono stati a volte strumentali i commenti politici, si è formato il polo dei genitori contrari all'obbligatorietà, il popolo dei Novax. Ci sono state le regioni orientate in modo diverso sul tema, con anche quelle in aperto contrasto con lo Stato centrale. In tutto questo, a prescindere da quello che è successo nei mesi scorsi, visto che siamo ormai a ridosso dell'apertura delle scuole, oggi è il 28 agosto, lasciamo ancora un po' tranquilli i nostri bambini godersi gli ultimi giorni di vacanza, ma in ogni caso il tema c'è, è aperto, siamo al punto che siamo alla vigilia appunto della riapertura dell'anno scolastico, e a seconda della data, perché come sapete l'inizio è differenziato in Italia, i genitori, per far entrare i figli a scuola, dovranno produrre la certificazione delle avvenute vaccinazioni, altrimenti i dirigenti scolastici ci saranno nel pieno diritto di non consentire l'accesso a scuola. Chi non avrà vaccinato sarà colpito da sanzione, e prevediamo già qualche momento complicato dunque da qui alle prossime due settimane, per cui vogliamo capire a che punto siamo. Tra l'altro molte amministrazioni si sono date un gran da fare per sollecitare le famiglie che ne risultavano ancora inadempienti, e in tutto questo c'è stata anche l'iniziativa, che è stata resa nota proprio nei giorni scorsi, dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, che ha prodotto uno schema di protocollo che impegna Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e Associazione dei Comuni ad una collaborazione efficace per la produzione dei certificati necessari per iscrivere i bambini a scuola. C'era una cifra, tra l'altro, che circolava negli ultimi giorni: 600.000 sarebbero tanti bimbi inadempienti fra nidi, materne, elementari, medie e licee del biennio, e bambini inadempienti significa che hanno saltato almeno una dose di esavalente, di trivalente. E il dato, però, diceva un'agenzia, è una stima grossolana, anzi questo dato, che sarebbe una stima grossolana, lo avrebbe detto il Ministero della Salute, perché siamo ancora in attesa di ricevere, il Ministero diceva, le informazioni precise dalle regioni entro il 31 agosto, per cui magari da qui alla fine di questa settimana questo dato si sarà drasticamente ridotto. Allora, fra un po' avremo con noi il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli. Cominciamo però il nostro dibattito quest'oggi con Anna Scavuzzo, Vice Sindaco, Assessore all'Educazione e all'Istruzione nel Comune di Milano, che saluto. Buongiorno Assessore, benvenuto. E benvenuto. Buongiorno anche a Luca Coletto, Assessore alla Sanità della Regione Veneto, una regione che è stata abbastanza vivace nel dibattito su questo argomento. Assessore Coletto, benvenuto anche a lei, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, chiaramente avete l'opportunità di intervenire in diretta su questo tema, vi piace naturalmente dire la vostra, lo sappiamo bene, lo abbiamo avuto modo di documentarlo anche nei mesi passati, quando con Nicoletta Carbone, con Cuore e Denari, abbiamo organizzato le trasmissioni su questo argomento, per cui anche stamattina sentiamo un po' che cosa ne pensate. Soprattutto vorrei sentire i genitori che hanno messo a posto la situazione. 800 24 0024, nel senso che sono a posto con le vaccinazioni e se hanno già comunicato alle scuole appunto quello che hanno fatto, al contrario chi non lo ha fatto, perché e cosa intende fare quando inizierà la scuola appunto fra una quindicina di giorni. Quindi il numero verde 800 24 00 24, oppure potete scriverci al 349 238 6666. Riceviamo i vostri messaggi sia attraverso l'SMS che attraverso WhatsApp. Assessore Scavuzzo, 33.000 bambini e bambine che si preparano al nuovo anno scolastico e al nuovo anno anzi educativo nei servizi dell'infanzia del Comune di Milano. A tutte le loro famiglie è stata inviata una comunicazione firmata da lei con tutte le informazioni utili per frequentare asili nido e scuole dell'infanzia alla luce delle novità normative sui vaccini. La notizia è stata data dal Comune di Milano appunto nei giorni scorsi. Che inizio d'anno educativo prevedete alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi mesi su questo argomento? Beh, sicuramente un inizio d'anno impegnativo. Quindi, insomma, io faccio appello anche un po' rispetto alle parole che ha usato nell'introduzione, perché il tema dei vaccini ha diviso molto. Io invece credo che quella che è la salute, la tutela della salute, debba tornare a unirci. Quindi l'impegno che anche nelle comunicazioni che abbiamo dato nelle ultime settimane, il fatto di riuscire a essere il più possibile vicino alle famiglie, è anche quello di recuperare un po' una distanza che io credo che non sia positiva per nessuno. C'è bisogno di tornare a scrivere insieme anche un po' il percorso necessario, quindi a capirsi. Si è arrivati a una decisione di imposizione di obbligo vaccinale. Io ricordo il Comune di Milano è quasi un anno che sta lavorando su questo tema, proprio perché l'abbassamento delle percentuali della copertura ci ha preoccupato molto e abbiamo discusso oltre 6 mesi con gli esperti, con i consiglieri in giunta, per capire anche come tornare a far capire l'importanza della copertura vaccinale. Perché questo non è un tema sul quale fare delle battaglie ideologiche o di posizione, c'è un tema di salute e di tutela che deve, come dicevo all'inizio, tornare a unirci. So che questo inizio d'anno sarà faticoso, perché ovviamente l'introduzione della norma in qualche modo divide, però credo che non dobbiamo smettere anche di fare tutta quella campagna di racconto, di discussione, per capire perché la copertura vaccinale e portare di nuovo i livelli di copertura sopra i livelli di soglia a cui eravamo arrivati sia un'azione importante. Oggi ci concentriamo sul metodo di in qualche modo iscrizione, lo faccio entrare o non lo faccio entrare, perché questo è il tema di queste settimane, però non dimentichiamoci che il tema appunto della copertura vaccinale, della possibilità per tutti i bambini di arrivare a scuola e di essere tranquilli rispetto a questo tipo di malattie è il punto di partenza. Direi che questo punto del dibattito, Assessore Scavuzzo, lo darei ormai per superato, però è molto importante appunto ricordare le contrapposizioni, solo perché a questo punto queste entreranno nel vivo proprio all'inizio dell'anno, quando probabilmente un bel po' di genitori appunto non saranno in regola con le certificazioni, non le produrranno alle scuole e di conseguenza lì si tratterà di capire se saranno lasciati fuori dalla porta della scuola materna, della scuola dell'infanzia o della scuola elementare, oppure se sarà consentito loro entrare. Per tutti i non in regola, so che ci sarà un periodo transitorio probabilmente, perché qualcuno non sarà in regola ma avrà intenzione comunque di farlo perché si sarà dimenticato di fare le vaccinazioni. Poi ci saranno invece gli irriducibili di chi non vuole assolutamente vaccinare, e qua è un altro paio di maniche, Assessore Scavuzzo. A seconda delle due situazioni, come si comporterà il Comune di Milano? Lei ha avuto una piccola contrapposizione verbale nei giorni scorsi con l'assessore regionale alla sanità su questo punto, Gallera. Cosa si farà? Allora, sono due i passaggi. Entro il 10 di settembre è necessario produrre la certificazione di avvenuta vaccinazione completa, oppure un'autocertificazione che racconti lo stato vaccinale del bambino e i documenti che raccontano quello che la famiglia sta mettendo in atto. Queste sono le documentazioni da produrre entro il 10. Allora, o il mio bambino ha fatto tutte le vaccinazioni, io ho il certificato, sono a posto, lo consegno a scuola e nessuno mi dice più niente, oppure il mio bambino è o nel percorso vaccinale perché magari è molto piccolo, oppure gli manca un vaccino o un altro, io sono andata alla TS, ho fatto la prenotazione e quindi vado a scuola e porto l'autocertificazione e un foglio che dica bene, a ottobre, a novembre ho la prenotazione per fare il vaccino che mi manca, i vaccini che mi mancano. che cosa può succedere? Che comunque la norma ci dice che entro il 10 di marzo le situazioni devono essere tutte quante chiarite. Quindi diciamo che c'è un primo livello al 10 di settembre, una prima data al 10 di settembre, una seconda al 10 di marzo. Mm. Cosa può succedere? Il motivo per cui ci siamo battibeccati, ma io ho chiesto un chiarimento all'assessore Gallera, perché, come dire, io non voglio che Milano faccia diversamente rispetto a quello che dice la norma, semplicemente ci atteniamo a quella e alle circolari. C'è una differenza, un conto è se parliamo di asili nido e di scuole dell'infanzia, quindi in quella che è chiamata dagli addetti ai lavori lo 06, no? Pensando all'età dei bambini, e un conto invece se parliamo dell'età dell'obbligo, quindi la scuola primaria e le scuole poi secondarie di primo e secondo grado. È diverso l'atteggiamento, perché mentre nel primo caso 06 non si tratta di scuola dell'obbligo, nel secondo si tratta di scuola dell'obbligo. Esatto. Quindi i bambini della scuola primaria non saranno lasciati fuori, perché non è possibile, lo dice anche la legge, quindi ci sarà un'ammenda, ci sarà una relazione fra l'ATS e la scuola, però di fatto non possono essere lasciati fuori. Nella legge invece si dice che per la scuola dell'infanzia e per la scuola per l'asilo nido, e quindi appunto per lo 06, non essendoci obbligo costituzionale, di fatto se mancano i requisiti di accesso e la documentazione vaccinale è requisito d'accesso, il bambino non può appunto entrare a scuola, no? Nella circolare del ministero lo dettaglio, certo, ulteriormente. Quindi Paola, diciamo che se, requisiti, sì, di accesso. Se questo fantomatico caos dovesse prodursi, si produrrà a quel livello, un po' meno all'ingresso delle scuole dell'obbligo. Esattamente. Infatti io ho chiesto all'assessore Gallera se ritiene opportuno un chiarimento. Noi abbiamo avuto diverse discussioni, forse non ci siamo neanche capiti su quello che stavamo chiedendo, io non sapevo più in che lingua dirlo, però quello che ha chiesto ANCI oggi, e che è quello che noi chiediamo da più di due settimane, è che appunto Regione Lombardia e ATS ci aiutassero per far sì che chi era in regola non dovesse produrre nulla. L'ATS avrebbe provveduto a mandare una comunicazione alle famiglie dicendo: tutto a posto, noi abbiamo il database, voi non dovete produrre niente, in modo che noi ci saremmo poi concentrati solamente su quelle famiglie a cui avremmo chiesto l'autocertificazione e i documenti, e ovviamente avremmo avuto modo anche di seguirli un po' meglio, perché stiamo parlando su 33.000 bambini, ce ne saranno, non so, una percentuale fra il 10, il 20% che ha ancora bisogno di una attività vaccinale, ci saremmo concentrati su quella, lasciando a casa tranquilli, cioè senza chiedere ulteriori certificati agli altri. Questo non è stato possibile. Sulla questione accesso o non accesso, non è che è il Comune di Milano che non li vuole a scuola, ma se una cosa è requisito d'accesso, io faccio sempre questo esempio un po', certo, come dire, semplice. Se il requisito d'accesso per entrare in piscina è che il bambino porti le ciabattine e la cuffia, se non ha le ciabattine e la cuffia, il bambino non è requisito, entra, d'accesso. Certo. Non vuol dire che decade l'iscrizione al corso di nuoto. Quella rimane, e anche nella norma c'è scritto. Quindi io non lo tolgo dagli lezione, sì, esatto, sì. Però fin tanto che non porta le ciabattine e la cuffia, il bambino non può entrare. Non siamo tanto lontani. Se nella norma mi si scrive che quel certificato o l'autocertificazione completa è un requisito di accesso, fin tanto che il bambino non lo porta, non ha i requisiti per entrare all'asilo. Assessore Scavuzzo, è stata chiarissima, avremo modo al termine di questa settimana di fare probabilmente un punto più dettagliato della situazione, perché forse questo flusso informativo che ancora manca e che presenta le sue lacune si sarà completato da qui al 10 settembre, data l'importanza della questione, sembra ci sia veramente un'era geologica e magari appunto molte situazioni si saranno sistemate. Intanto la ringrazio per essere stata con noi, perché adesso vorrei andare in Veneto da Luca Coletto, assessore alla sanità di questa regione, che è stata una regione, assessore, la possiamo definire un po' recalcitrante rispetto a questa norma? È stata una delle regioni che si è opposta di più alla questione degli obblighi vaccinali ampliati a 10 appunto dai 4 precedenti, e ho letto una cifra che circolava settimana scorsa di circa 4.000 bambini che non sarebbero in regola con le vaccinazioni, e quindi appunto per questi potrebbe crearsi qualche problema rispetto all'ingresso a scuola a partire dalla metà di settembre. Qual è la situazione ad oggi? Assessore Coletto, buongiorno di nuovo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, la situazione è assolutamente, come dire, sotto controllo, anche perché noi come Regione del Veneto non è che siamo stati recalcitranti contro i vaccini, noi siamo assolutamente a favore dei vaccini. È l'obbligo, la questione dell'obbligo. Certo, certo, ma vale la pena sempre sottolinearlo, perché si si viene facilmente collocati con i Novax. Noi siamo a favore dei vaccini e lo sottolineo per l'ennesima volta. Non siamo a favore dell'obbligo, siamo contro la coercizione, perché noi insistiamo sulla questione che l'informazione e la vaccinazione consapevole è, concedetemi la parola, è il virus giusto che contagia tutti quanti i genitori per agevolare la vaccinazione, informazione scientifica naturalmente. In Veneto la situazione è assolutamente sotto controllo, siamo gli unici che da 10 anni, cioè da quando noi abbiamo la sospensione dell'obbligo vaccinale, con la percentuale che ad oggi per quanto riguarda la polio e il morbillo vale oltre il 92%, abbiamo un'anagrafe vaccinale informatizzata, quindi abbiamo tutti quanti i dati informatizzati e con un click noi abbiamo la situazione precisa, cittadino per cittadino, bambino per bambino. Quindi direi che è assolutamente sotto controllo e che nonostante la forzatura, visto considerato che i vaccini sono diventati 6+4, 4 rosolia, morbillo e altre patologie esantematiche che devono essere monitorate semestralmente. Questo monitoraggio evidentemente sarà agevolato in Veneto, visto e considerato che abbiamo una banca dati così importante. Sulle altre regioni non so come andrà a finire. Sì, si stanno organizzando tutte quante e naturalmente lo vedremo nelle prossime settimane, perché lei dice un po' con questo tono di sfida, vedremo nelle altre regioni come andrà a finire? Ma cosa vuole? Perché l'anagrafe vaccinale informatizzata a livello nazionale ce l'ha solo il Veneto, quindi diciamo che noi abbiamo dei dati pronto consumo in tempo reale, le altre regioni evidentemente faticheranno un po' ad avere questi dati in tempo reale, a differenza del Veneto che con la sospensione ha avuto questa, con la sospensione dell'obbligo, ha avuto quest'obbligo di avere l'anagrafe vaccinale informatizzata, e noi l'abbiamo da tanto tempo, compresa quella che va a verificare gli eventuali esiti negativi. Mettiamola così, allora, auspichiamo che questa situazione nuova di quest'anno possa rappresentare anche un modo per andare a guardare quello che fanno le regioni virtuose su certi argomenti, su certi temi, in certi settori, per prenderne spunto e naturalmente operare tutti al meglio. Assessore Coletto, la ringrazio per essere stato con noi, devo andare in pausa, fra un po' abbiamo con noi il ministro Valeria Fedeli, alla quale faremo raccontare un po' cosa si prevede per questo inizio di anno scolastico, che ancora ha di fronte a sé una 15 giorni, ma le sfide sono molte. Questa, della quale parliamo questa mattina, è particolarmente importante. Intanto saluto, anche perché mi ha raggiunto qua in studio, mi farà compagnia per tutta la prossima ora e un quarto, Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore. Voi ne scrivete stamattina di questo argomento insieme a tanto altro. Sì, certamente. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Noi questa mattina abbiamo 4 pagine dedicate ai temi della ripresa, sì. E naturalmente la scuola, perché non ci sono solo i vaccini ma ci sono anche altre novità, è una di queste tematiche che abbiamo messo proprio oggi nel dettaglio sul Sole 24 Ore. Abbiamo molte cose da chiedere al ministro Fedeli, allora togliamoci di torno, ma naturalmente ben venga sempre la pubblicità, tra pochissimo. Ma cos'è quest'estate? Eccoci di nuovo in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani ma anche da Mauro Meazza. Questa buongiorno. Faccio le tue veci, vedi, a salutare i nostri ascoltatori. Ho già ricordato prima che questa è l'ultima settimana di Ma che cos'è quest'estate, perché poi riprende il palinsesto di Radio 24, tutti nei ranghi, nella norma, un po' come gli scolari pronti a ritornare sui banchi di scuola il 10 settembre, noi ritorniamo molto prima, Mauro. Purtroppo è così, siamo già tornati da un bel pezzo, Deborah, che, a dire la verità. Le nostre vacanze, guarda, siamo già scoloriti io e te, le nostre vacanze sono un lontano ricordo. Questa mattina, per riprendere l'ultima settimana, che cos'è quest'estate? Niente, mi impappino, devo andare a prendere un caffè. Abbiamo scelto, appunto, come dicevo prima, anche con l'assessore del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, un tema che è stato piuttosto divisivo, lo è ancora, e chissà che cosa succederà nelle prossime settimane. Appunto, l'obbligo di vaccinazione che è ritornato a 10 10, è passato appunto a 10 secondo le disposizioni del Ministero della Salute. Non siamo a ricordare ancora le tipologie di vaccino che devono essere fatte. Il tema è che per molti bambini potrebbe essere precluso l'ingresso a scuola quando le scuole riapriranno, se non si presenteranno appunto con le carte in regola rispetto a queste disposizioni. Allora il tema è: chi ha fatto tutti i vaccini ha tutte le certificazioni ed è già in grado di produrle alle scuole. Chi è in regola con i vaccini e non è in grado appunto di produrre le certificazioni alle scuole, molte enti locali hanno dato la possibilità di autocertificarsi. L'altro tema è chi invece non vuole assolutamente ottemperare a questo obbligo, non ha intenzione di vaccinare i figli e si presenterà a scuola e probabilmente, Mauro, e probabilmente ci sarà una distinzione, come ricordavi anche nella prima parte della trasmissione, per cui alle materne sostanzialmente non si entra, cioè finché parliamo di scuola non dell'obbligo. Quando si arriva invece nella scuola dell'obbligo, secondo le circolari che il Ministero ha diffuso proprio a cavallo di Ferragosto, ebbene lì nella scuola dell'obbligo non si potrà impedire l'accesso al bambino, anche perché sarebbe contraddittorio con la norma che impone appunto l'obbligo formativo. Però ci sarà la sanzione. Esatto, e qui bisognerà capire allora il Ministero dell'Istruzione come vigilerà su tutto questo. Ministro Fedeli, buongiorno e grazie di essere con noi questa mattina, ma che cos'è quest'estate? Un'estate un po' complicata su questo argomento. Dobbiamo ammetterlo. Vabbè, un'estate complicata, però devo dirvi che personalmente sono un po' più ottimista di quanto viene descritto. Intanto perché credo che durante anche il dibattito acceso e anche contrastato, come voi lo avete raccontato, sui vaccini, io penso che si sia anche diffusa maggiore consapevolezza sull'importanza delle vaccinazioni. Casomai quello che a me un po' più preoccupa è i tempi e le condizioni, diciamo, burocratiche per le quali i genitori devono fornire le pezze d'appoggio, quindi diciamo tutto il sistema vaccinale. Sono un po' più preoccupata di questo. Esatto, perché il tema è stato proprio questo, un nuovo adempimento a carico delle scuole, E quindi ad oggi la situazione, Ministro, qual è? Guardi, ad oggi la situazione è difficile da verificare perché per l'appunto lo vedremo di più in questa settimana, ma insomma nei prossimi giorni. Quello che stiamo avvertendo è che c'è un lavoro fatto tra gli uffici scolastici sia regionali che provinciali con gli enti locali, ma anche con il Servizio Sanitario Nazionale per facilitare l'acquisizione di documentazione ai genitori. Ecco, io penso che questo sia stato l'elemento più importante su cui abbiamo lavorato da subito come Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi vediamo all'atto, diciamo, del 10 di settembre in che condizioni saremo, ma le ripeto, sono più preoccupata del carico burocratico che non del fatto di trovare molti genitori che non vogliono vaccinare i propri figli. Ma nel caso, Ministro, se anche fossero 5 in tutta Italia il 10 settembre, pochi casi naturalmente sporadici, quelli bisognerà gestirli, no? Detto no, questo, che probabilmente forse saranno un po' di più. Però con una distinzione che voi avete già fornito e che deve essere molto chiara, ma che ha anche una motivazione. Da 0 a 6 anni, se non hai fatto le vaccinazioni o se non hai chiesto di vaccinare tuo figlio, perché anche questo vale, ci sono realtà nel paese in cui magari tu hai chiesto di vaccinare tuo figlio ma non ci sono stati ancora i tempi, ecco lì in quel caso tutti quelli che non hanno ancora vaccinato o che non vogliono vaccinare a quel punto non entrano nella scuola da 0 a 6 anni, mentre nella scuola dell'obbligo sì. Una distinzione importante per due ragioni, non solo per quello che voi dicevate prima, perché c'è un altro obbligo istituzionale da rispettare, che è quello dell'obbligo formativo scolastico, ma anche perché il grandissimo lavoro che va fatto per tutelare la salute dei singoli bambini, ma anche delle comunità, deve iniziare esattamente dai primi anni di vita, perché lì che anche nella cosiddetto libretto vaccinale, percorso vaccinale, tu devi aumentare la copertura. Diciamo che quando tu arrivi ai 6 anni, molto dovrebbe essere già stato fatto in termini di vaccinazione. Questo io credo che sia l'elemento più importante. Per questo abbiamo fatto il ragionamento per il quale nella scuola materna o nell'asilo nido non entri se non sei vaccinato o se non ti poni il tema di vaccinare tuo figlio. mentre nella scuola dell'obbligo entri. Ovviamente, anche qui tengo a dire, se un genitore non ha fatto negli anni precedenti vaccinare il proprio figlio, continua a mantenere un atteggiamento contrario alla vaccinazione, noi comunque lavoriamo a convincere, coinvolgere e motivare, oltre che ovviamente a sanzionare così come prevede la legge, ma continuo a pensare che il lavoro più importante che dobbiamo fare anche come istruzione è quello di motivare, convincere e coinvolgere i genitori sull'importanza della vaccinazione per il proprio figlio, ma ovviamente per l'insieme della comunità. Signor Ministro, sono Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle, se capisco bene da quello che ci ha detto prima, questa data del 10 settembre, che poi è domenica, quindi noi oggi su Sole 24 Ore scriviamo 11. No, non me lo dica, sì esatto, diciamo 11. Ecco, diciamo che è l'11 settembre, insomma la data operativa, va interpretata nel senso che se io ho una prenotazione come genitore... vengo ammesso comunque anche nella scuola 06, nella fascia 0-6 anni, è così? Perché no, sì, perché non è una responsabilità del genitore. Benissimo, per cui... punto, perché questo è un elemento importante, perché può succedere che hai chiesto di far vaccinare tuo figlio, ma la struttura sanitaria ti dice, ti dà l'appuntamento a 2 mesi. Ecco. Certo, non c'è alcuna malizia nella domanda che le faccio ora, no. Ma glielo devo chiedere. C'è possibilità di una proroga di questa data del 10-11 settembre? Guardi, no, proprio no, non credo che abbia un senso la proroga, proprio per le cose che le sto dicendo. Certamente, ma perché... era importante che lo dicesse lei. Ah, ok, esatto. va bene. Ce l'ho detto, non c'è nessuna proroga. Perché allora facciamo il caso concreto, le dico, io sono sufficientemente ottimista perché credo che soprattutto le coppie giovani abbiano compreso benissimo l'importanza delle vaccinazioni e anche il passaggio da quelle facoltative a obbligatorie. Molte persone, glielo dico per esperienza in questi mesi che ho girato, ho discusso anche con le famiglie, guardi che c'erano famiglie che non facevano vaccinare sulle vaccinazioni, diciamo, facoltà consigliate, raccomandate, ma non obbligatorie, a volte anche per ragioni di costo. Certo. Glielo dico proprio non per scelta invece da Novax. Quindi sono abbastanza convinta di questo. Se invece ci sono poi genitori che invece ne fanno una questione ideologica, a quel punto te ne accorgi subito e lì intervieni diversamente. Voi avete anche in animo di coinvolgere l'ordine dei medici, gli ordini dei medici Guardi, sul territorio? Questo non siamo nella condizione di poterlo fare noi come istruzione, ma quello che continuiamo a fare con il Ministero della Salute è il massimo di collaborazione per arrivare al risultato utile. Pensavo a delle campagne informative nelle scuole. Quello lo facciamo sicuramente, ma quello lo facciamo ed è già in atto, però la campagna informativa sui vaccini, diciamo da un punto di vista del contenuto, ce la offre il Ministero della Sanità e noi lo divulghiamo dentro le scuole. Ministro, le chiedo di rimanere ancora con noi qualche certo. minuto, se può abbiamo un altro paio di ospiti che abbiamo interpellato per sì. la questione di stamattina, poi naturalmente a noi piacerebbe farle anche altre domande su altri temi attinenti all'inizio dell'anno scolastico, agli impegni che avete per quest'anno, ai quali dovrete incrociare probabilmente anche quelli che si è dato il Ministero del Lavoro per rilanciare l'occupazione giovanile, che è un tema molto caldo e molto importante per me e Mauro, sul quale faremo grandi battaglie informative se possibile nelle Certamente. Prossime settimane. Detto questo, saluto Renzo Berti, direttore del Dipartimento Prevenzione Azienda Sanitaria Toscana Centro. Berti, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi, visto che prima abbiamo parlato della questione veneta, abbiamo con noi anche Stefano Cecchin, presidente della Federazione Italiana Scuole Materne Veneto. Cecchin, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Sento subito lei, Cecchin, perché ci piacerebbe capire la questione del non ingresso a scuola per gli inadempienti. Il Veneto, prima l'assessore alla sanità Coletto ci ricordava come ci sia questo modello al quale le altre regioni dovrebbero guardare, di istituzione già fatta da tempo dell'anagrafe appunto vaccinale, ma per i bambini non in regola con le vaccinazioni. Cosa farete appunto in Veneto? La legge dice non si entra, detto ciò c'è anche una battaglia appunto che il Veneto ha portato avanti di tra virgolette, so che all'assessore Coletto questo termine non è piaciuto, ma comunque di contrapposizione con lo Stato centrale sul tema dell'obbligo, per cui voi le avete condivise le posizioni delle famiglie che non vogliono ottemperare a questo. Cosa voi, nel senso che la Regione lo ha fatto, non voi come scuole naturalmente, quindi come vi comporterete con le famiglie che comunque vorranno entrare ma con le certificazioni non sono a posto? Allora, anzi, con le vaccinazioni non sono a posto più che con le certificazioni. La ringrazio per questa domanda perché va a fare chiarezza immediatamente sulla questione. Allora, la FISM, la Federazione Italiana delle Scuole Materne del Veneto, federa in Veneto circa 1100 scuole. Vengono accolte ogni mattina 83.000 bambini circa, cioè due bambini su tre in Veneto vengono accolti all'interno delle scuole dell'infanzia paritaria. C'è chi mi scusi, se ha un viva voce le chiedo cortesemente di utilizzare la cornetta perché non la sentiamo bene, in radio abbiamo delle regole molto stringenti, grazie. Ce la facciamo? Check-in, è peggio il telefono del viva voce, mi sente? Abbiamo perduto check-in, forse. Ecco, allora andiamo a Berti, intanto che lui ripristina una telefonata, ci proviamo con la Chiara Berti. Voi, per quello che riguarda invece la Toscana, avete siglato un accordo nei giorni scorsi, adesso ce lo ricorderà lei appunto con quali altre istituzioni, le tre aziende sanitarie toscane, l'ANCI, l'Ufficio Scolastico Regionale, proprio per facilitare questa famosa trasmissione di dati tra ASL e scuole, per alleggerire un po' anche il carico delle scuole rispetto alla visualizzazione di queste certificazioni necessarie per far entrare i bambini a scuola. Ci spiega la natura di questo accordo e che tipo di obiettivo ha avuto? L'obiettivo fondamentale è quello di non distogliere l'attenzione dei genitori, delle famiglie, di tutti, dall'obiettivo fondamentale della legge, che è quella di incrementare l'adesione vaccinale. Quindi cercando di semplificare al massimo le procedure e le montagne di carta che altrimenti potrebbero essere prodotte. In questo senso va l'accordo con i partner che lei ricordava e che prevede semplicemente questo, che incrociando i dati degli elenchi degli iscritti alla scuola con quelli in nostro possesso, perché anche in Toscana esiste l'anagrafe vaccinale, non abbiamo un unico modello informatico perché recentemente la Toscana ha fuso le aziende riducendole a tre, quindi ci sono modelli diversi, però abbiamo la possibilità di avere l'elenco dei soggetti che non sono in regola con le vaccinazioni. Quindi incrociando questi dati con quelli di chi è iscritto a scuola ci attiviamo nei confronti delle famiglie cercando di fare quello che la legge chiede, ovvero sia di parlare, di convincerle, di avere un atteggiamento persuasivo per arrivare all'obiettivo fondamentale che è quello dell'incremento delle vaccinazioni. Quando arriveremo all'esito di questo percorso, auspicabilmente positivo, ma sappiamo bene che non sarà sempre così, comunicheremo le risultanze alla scuola per gli adempimenti del caso. Quando farete un primo bilancio del funzionamento di questo meccanismo, Berti? Ma questo meccanismo partirà subito, quindi partirà con i prossimi giorni, mese di settembre, quindi cerchiamo di poter arrivare quanto prima ad un'analisi del risultato che potrà essere realizzata nei prossimi mesi. Certo, quindi Mauro, insomma, chiamarla una situazione a macchia di leopardo sul territorio è un eufemismo. C'è stato però grande attivismo da parte di tutti, del mondo delle aziende sanitarie, il mondo della scuola necessariamente, gli enti locali, non solo per sensibilizzare le famiglie ma per fare in modo che naturalmente poi l'anno scolastico parta più o meno serenamente. Ma perché questo è del resto una inevitabile conseguenza del fatto che poi ogni regione si amministra e amministra questo tipo di dati come meglio crede. Allora abbiamo il caso del Veneto, un'esperienza diversa in Toscana, ce n'è una diversa ancora nel Lazio o in Lombardia. Chiaramente spetterà poi alle famiglie avere la pazienza, per così dire, di contattare, di mettersi in contatto con le scuole e con le aziende locali, le aziende sanitarie locali, per capire qual è il criterio che è stato adottato. Lasciamo, e anche il giudicare il livello di efficienza della singola regione, esatto. Mi viene da dire. Lasciamo completare il ragionamento a Stefano Cecchin, Federazione Italiana Scuole Materne Veneto, eccoci a noi di nuovo. Eccoci, mi sentite? Sì, adesso meglio. Perfetto, allora in Veneto abbiamo circa... Meglio non tanto, però insomma la lascio completare così, se no non finiamo più, vada. Ecco, in Veneto abbiamo circa 83.000 bambini che sono accolti quotidianamente all'interno delle scuole di infanzia paritarie associate alla FISM. Due bambini su tre frequentano le scuole di infanzia paritarie della FISM. Nel nel 50% dei comuni veneti esiste solo questa scuola dell'infanzia. Quindi la Federazione Italiana delle Scuole Materne federa di fatto queste scuole e rappresenta i gestori. Io sono un gestore di una scuola in provincia di Venezia. Sì. Entro il 10 noi dovremo ovviamente raccogliere, come prevede la legge, quindi ci atterremo al dettato della legge, quindi resteremo assolutamente nel perimetro previsto dalla legge. Questo è, deve essere chiaro a tutti. Quindi non ci saranno parcheggiamenti o altre questioni. Cioè la questione sarà quella di restare all'interno del dettato. Il dettato prevede che entro il 10 di settembre noi come gestori delle scuole si raccolga in sostanza l'autocertificazione da parte dei genitori, la certificazione dello stato vaccinale da parte dei genitori oppure un appuntamento appunto preso dai genitori. I bambini che non avessero, che non potessero appunto essere vaccinati per una serie di motivi, immunodepressi, nati prematuri, con delle forme allergiche, intolleranza, eccetera, i vaccini verranno segnalati, va bene? Comunque entro il 10 bisogna raccogliere questo materiale. Diciamo che però entrano solo i vaccinati, check-in, gli altri momentaneamente no, anche se hanno tutte le giustificazioni del caso. Entreranno in sostanza i vaccinati, potranno entrare, come diceva prima la ministra Fedeli, va bene, i bambini, cui genitori presenteranno al gestore, quindi alla scuola, va bene, la richiesta d'appuntamento. Presenteranno la copia della richiesta d'appuntamento, l'appuntamento fissato, potranno entrare, avranno tempo poi fino al 10 di marzo 2018 sì, per mettersi in regola e quindi per fare tutto il ciclo vaccinale completo, che ricordiamolo è di 10 appunto vaccini. Certo. Check-in, grazie per il suo contributo di questa mattina, gli ultimi minuti di tempo con il ministro Fedeli. Ministro, insomma questa sarà una settimana decisiva per chiaramente far partire tutto il meccanismo del traffico di dati che ci sarà tra strutture sanitarie, ASL, scuole e quant'altro, e quindi non è ancora tempo per dare un punto fisso del dibattito, ma probabilmente sarà necessario ritornarci almeno nel giro di una settimana. Ecco, da qui a questa settimana che impegni ha in questo senso di monitoraggio della questione? Guardi, abbiamo degli impegni quotidiani di monitoraggio attraverso i nostri uffici provinciali e regionali, abbiamo anche il monitoraggio sul fatto che l'anno scolastico al 15 di settembre inizi regolarmente. Cosa significa regolarmente e normalmente? Con tutti i docenti in classe, sia quelli di ruolo, sia con i supplenti necessari. L'impegno che ci eravamo presi era quello di non avere quest'anno una girandola nei primi mesi dell'anno scolastico di insegnanti, proprio per garantire a studenti e famiglie l'avvio ordinato e normale dell'anno scolastico. Quindi monitoreremo anche questo, perché questo siamo nella fase nella quale si chiamano i supplenti per le cattedre rimaste scoperte da mobilità e da presenza di insegnanti e docenti a tempo indeterminato, cioè di ruolo. Ecco, signor Ministro, noi oggi scriviamo che avete l'intenzione di scendere per la prima volta, e sarebbe un risultato, mi viene da dire, storico, sotto la quota dei 100.000 precari, quindi cominciano... Guarda, io tengo, mentre lei parla, come si dice, le dita incrociate. Comunque questo è un obiettivo realistico. Perché si parla di stabilizzare 15.000 e più cattedre in questo... Abbiamo già... Allora, qual è il tema? Noi abbiamo già diminuito di 15.100 il numero dei precari, quindi abbiamo ovviamente un passo ulteriore in avanti di stabilizzazione. Quindi questo sulla carta c'è già. Qual è la nostra oggettiva difficoltà? Che per alcune materie non abbiamo i docenti di ruolo che le possono coprire, e quindi da questo punto di vista dobbiamo tornare a utilizzare personale a tempo determinato, comunque precario. Questo è il tema. Però non c'è dubbio che quest'anno abbiamo 15.100 supplenti in meno, che mi sembra un buon segnale, su cui non fermarsi, su cui andare avanti. Ecco, e come va la situazione invece dei cosiddetti trasferimenti, cioè quei docenti che ascoltatori, che gli ascoltatori segnalano, peraltro, eravamo già pronti, sì. Beh, segnalano in che senso? Cioè, diciamo che tutte le procedure sono state già fatte e concluse al 15 di agosto. Quindi adesso abbiamo abbiamo la parte anche delle assegnazioni e abbiamo la parte della chiamata delle scuole per i supplenti. Cioè, quello che noi abbiamo fatto quest'anno, devo dire con uno sforzo enorme sia degli uffici del Ministero, ma anche degli uffici e delle scuole a livello provinciale, è stato esattamente quello di esserci dati un cronoprogramma molto molto preciso, con date precise. Quindi abbiamo affrontato tutti i passaggi esattamente per l'obiettivo che dichiaravo prima. Quindi chi ha ottenuto il trasferimento lo sa già, chi non l'ha ottenuto altrettanto lo sa. Quindi abbiamo affrontato tutto per tempo. E per quest'anno però poi ci sono altre novità, perché tra l'altro ci dovrà essere una alternanza obbligatoria. Sì. Questo è un altro punto fondamentale. È un punto veramente di qualità. Ministro Fedeli, io devo andare al giornale radio. Lei non è che ci dà altro tempo fino alle 9:15? Non ce la faccio. Non ce la fa. Parlare di alternanza scuola-lavoro. Però ci possiamo dare un altro appuntamento. Perché lo considero molto importante. Anche noi. Considero molto importante ragionare con i vostri ascoltatori sul rapporto nuovo che si deve avere tra ingresso al lavoro e formazione. Allora, perché al termine della trasmissione prendiamo subito appuntamento con lei. Linea al giornale radio, perché è tardissimo. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin! Nel banco freezer! Ma cos'è quest'estate? Oh, adesso va un po' meglio. Si sta bene. Buongiorno. Ah, eccola qui, questa signora Manina. Ah, che meraviglia. Cos'è quella luce là in fondo? Così, respiri. Così, bravissima. Spinga, ancora. Forza. Ehi, no, che spingere! Non va diretta! Non spingere, sto cadendo! Allora, noi non siamo impazziti, io e Mauro Meazza, però ogni tanto un po', come dire, di leggerezza per introdurre i nostri argomenti è necessaria. Io non so che non interesserà nessuno, ma questo è uno dei miei film preferiti in assoluto, perché a parte l'amore per John Travolta, che ho da sempre. La voce di Paolo Villaggio. Esatto, e Senti chi parla, che è un film strepitoso secondo me, ma per introdurre un parto che è stato... Perché? Un parto che è stato plurigemellare, una gravidanza che è stata elefantiaca. Sì, 900 giorni, parliamo dei giorni necessari per approvare la legge sulla concorrenza, entra in vigore domani. Ce l'abbiamo. Domani finalmente sarà in vigore. Qualche dolorino finale, ancora questo parto, quindi deve... No, in realtà è un bambino che deve crescere, se vuoi mantenere questa metafora, perché come spieghiamo, come abbiamo spiegato anche nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore, come abbiamo spiegato ieri con una delle nostre primissime pagine, pagine iniziali, è una legge che contiene alcune parti che entrano in vigore a successivi decreti, a successive anche viene da dire legislature, perché ci sono termini di 12 mesi dal 29 di agosto e quindi andiamo già a scavallare in un'altra legislatura. Circostanza dalla quale noi siamo molto contenti, perché ci fornerà materiale per lavorare per tantissime puntate. Per abbiamo due già di un calendario fittissimo. Esatto, che è il calendario del rientro che ha elaborato appunto il Sole 24 Ore questa mattina. Prima di andare ad approfondire questo argomento, sia tutti gli impegni politici che ci saranno da qui alle prossime settimane e poi come svilupperà il suo percorso anche il provvedimento sulla concorrenza, che è molto importante per tutti i consumatori che abbiamo all'ascolto, per tutti i cittadini / consumatori, vorrei solamente sentire Mauro, per completare il ragionamento che abbiamo fatto prima, un paio di ascoltatori, visto che li ho invitati ad intervenire in diretta sul tema dei vaccini. Loro chiamano, vogliono dire la loro, poi non riusciamo mai per l'affollamento di ospite a sentirli, quindi un paio di ascoltatori sentiamoli volentieri, poi andiamo ad approfondire invece l'altro argomento. Egle da Palermo, buongiorno. Buongiorno, guardi, io non sono in grado di esprimermi come la ministra Fedeli. Sui linguaggio vaccini. Dei ministri, Egle appartiene a loro, e no, però la ministra Fedeli è anche molto... No, è stata chiarissima, per carità, io lo dico rivolgendomi a me stessa, cioè mi sento un po' in soggezione, ecco questo. No, per volevo carità, dire, Egle. Perché volevo dire questo, che non fare vaccinare i bambini, cioè opporsi alle vaccinazioni, è qualcosa di demenziale, per un motivo: con questi mutamenti climatici il nostro organismo ormai è parecchio debilitato, immaginiamoci quelli dei bambini che sono piccoli e teneri, e quando un organismo è privo delle giuste difese immunitarie può essere aggredito da qualsiasi cosa. Quindi intanto mettiamoli al sicuro dalle cosiddette malattie esantematiche, come si chiamavano una volta, e veramente facciamole forse il più grande atto d'amore che si possa fare nei confronti dei nostri bambini. Egle, grazie. Noi quindi questa mattina vacciniamo e vacciniamo. Non abbiamo voluto dare la declinazione scientifica all'argomento, la lasciamo ad altre trasmissioni, anche perché su questo aspetto si è veramente consumato all'inverosimile il dibattito nei mesi scorsi. Lo lasciamo, ribadisco, alla comunità scientifica. Noi stamattina volevamo concentrarsi su cosa si farà da qui a quando la scuola ripartirà, no Marco e Mauro, nel caso in cui le famiglie, Deborah, non siano in regola. Sì, Deborah, il senso della nostra trasmissione di questa mattina è quello di informare soprattutto i genitori che hanno i figli in età scolare, e quindi che c'è da fare, che cosa c'è ancora da fare, sta funzionando o non sta funzionando il meccanismo di obbligatorietà dei vaccini previsto per l'età scolare. Bartolomeo da Barletta, anche a lei il suo contributo sul tema vaccini, che poi archiviamo rapidamente. Bartolomeo, buongiorno. Sì, buongiorno, molto rapido. Le spiego, io parlo in qualità di genitore di un bambino di 3 anni, e partendo dal presupposto che sono sostanzialmente d'accordo con le vaccinazioni e con gli obblighi introdotti dal nuovo decreto, mi trovo a dover esprimere la difficoltà che ho incontrato per quanto riguarda la mia situazione personale, però penso che ce ne siano. Le spiego, le ASL attualmente, a mio parere, non sono strutturate per venire contro a tutte le problematiche che si presentano. Mi spiego, non tutti i bambini arrivano oggi con lo stesso percorso vaccinale standard previsto finoggi. Sì, ma per tante motivazioni possono esserci delle condizioni oggettive, delle situazioni personali, sì, eccetera, per cui il calendario vaccinale, come dire, proprio come la marcetta, non è possibile che molti appunto la possano seguire per tante motivazioni. Per cui lei, Bartolomeo, che tipo di problema ha? Il mio problema è che mio figlio nello specifico, per esempio, per chiudere il ciclo vaccinale dei 10 vaccini, gliene manca uno, nello specifico l'antiemophilus, e mi sono trovato un riscontro da parte dell'ASL dicendomi che non è previsto che l'ASL mi dia questo vaccino in maniera singola e che non prevede di darmelo in futuro, non mi ha potuto neanche dare una prenotazione. Certo. L'antemofilus è un vaccino non obbligatorio al momento, era presente in questo famoso esavalente che io non ho voluto fare in quella maniera, ma ho fatto vaccini singoli, cioè ho fatto un percorso vaccinale differente. Il problema è che come me ci saranno tanti genitori che si presentano con un quadro, un percorso vaccinale incompleto per ragioni non riscontra, cioè non mi darà questo vaccino mancante nel mio caso, potrebbero essere due o altri, perché lei prevede solo i 2-3 vaccini standard che gli vengono forniti. Chiarissimo, Bartolomeo. Certo. Beh, chissà se in questo caso, Mauro, la struttura sanitaria, la ASA, se la vedrà con la scuola per questo trasferimento di informazioni, e sarà responsabilità del genitore la mancata informazione alla scuola. Ma quindi rispetto a credo che questo ascoltatore abbia solo la possibilità di rivolgersi al privato, sostanzialmente, se vuole completare il percorso vaccinale del figlio. Anche perché, se capisco bene, qui andiamo in un tipo di applicazione dell'obbligo vaccinale differente, perché non è stata fatta in un'unica applicazione, ma fatta su più applicazioni. È uno, tra l'altro, dei temi che spesso si leggono appunto nei dibattiti anche sui social sui vaccini, e credo che qui ci sia solo poi il ricorso al privato, a meno, e la ASL certificherà, però per la parte obbligatoria il bambino di questo signore è certo a posto a questo punto. Infatti. Allora, grazie a Bartolomeo per averci dato conto anche della sua situazione personale, che ancora una volta conferma quanto dicevamo dicevamo prima, situazione a macchia di leopardo appunto su tutto il territorio, e qua aggiungiamo anche il caso pugliese, come quello raccontatoci appunto da Bartolomeo da Barletta. La legge sulla concorrenza, cambiamo radicalmente territorio adesso, Mauro, e qua ci divertiamo stamattina così come lo faremo nelle prossime settimane. Un provvedimento che è stato il frutto di un duro percorso, lungo, articolato percorso parlamentare, ma da domani il provvedimento sulla concorrenza ce l'abbiamo. Peraltro molto divertente anche la conformazione legislativa, una legge con un unico articolo e quanti commi? 192. Ecco. Non è purtroppo una cosa rara, cioè, da vedersi. No, infatti. No, adesso per gli appassionati del genere, che immagino non siano moltissimi, però questo succede quando si ricorre al voto di fiducia. Ma tu sei la dimostrazione vivente che si può occupare di questi argomenti divertendosi anche. Lo so, sì, che può sembrare incredibile, a qualcuno eppure è così. Via, comunque seconda. La sostanza è che quando si ricorre al voto di fiducia spesso cosa si fa? Si riunisce il tutto, esatto, in un unico articolo, così che il voto sia unico, altrimenti bisognerebbe votare articolo per articolo. Come il famoso mille proroghe, che più o meno ha lo stesso spirito. Sì, sì. No? E quindi, esatto, però questo cosa fa? Fa sì che chi deve poi confrontarsi con la legge fa un pochino fatica, perché le cose sono sparse una dietro l'altra. Questo è quasi anche un provvedimento ordinato, nel senso che più o meno per blocchi è riconoscibile. Altri provvedimenti, come ad esempio la legge di bilancio, spesso sono affastellati, un comma dice una cosa, poi bisogna andare qualche centinaio di commi dopo per trovarlo. Ma al netto di tutto questo, Deborah, da domani che cosa possiamo avere in più di concorrenza? Allora, non tutta la legge concorrenza, l'abbiamo detto, perché altre parti dovranno essere invece implementate, diciamo così, sì, dovranno arrivare i decreti attuativi, però arriverà ad esempio un cambiamento radicale nei rapporti con i professionisti, perché arriva questo obbligo del preventivo scritto. In realtà c'era già, ma non era così cogente, c'era dal 2012, da una legge di riforma del 2012. Adesso la legge sulla concorrenza, come dire, puntualizza l'obbligo. E allora faccio un esempio, che ne so, devo andare uno va dal notaio, dall'avvocato, e ha l'obbligo del preventivo scritto. Beh, col notaio è già più semplice ottenere magari un preventivo scritto, anche, esatto, perché molta parte di ti quello serve che si un paga rogito, al notaio, esatto, sono hai una imposte, rendita catastale, sei a posto, e certo, quindi non è così complicato. La cosa più difficile invece è quando hai bisogno di una prestazione un po' più sfumata. Può essere l'architetto, può essere il geometra, può essere il commercialista, l'avvocato. Ecco, c'è questo obbligo di preventivo scritto, tutta la parte professionale. All'interno poi del mondo professionale c'è l'importante novità dei soci di capitale nelle società, ma questo credo che... No, ecco, no, però in realtà questo a me incuriosiva, perché leggevo ieri appunto sempre sulle pagine del Sole, anche nel ottima numero di ieri. Ottima lettura, grazie Deborah. Ieri mattina presto ho fatto i compiti per essere pronta stamattina. La questione degli studi degli avvocati. Non ho capito bene in realtà che cosa cambia. Cambia che è ammesso l'ingresso di soci di capitale, ma solo a certe condizioni. Allora, la sostanza su cui si è dibattuto, questo è un problema eterno, gli appassionati del genere sanno che se ne parla da decine e decine di anni. Allora, esistono delle law firm, come si chiamano in gergo, cioè fabbriche della legge, verrebbe da tradurre, sono strutture molto grandi, sono strutture di derivazione straniera, estera, e però operanti anche in Italia. In Italia invece si è sempre privilegiato e anche limitato l'accesso di soci di capitale presso gli studi degli avvocati. E questo, secondo alcuni, ha anche ridotto le possibilità di crescita di alcuni studi. In realtà esistono studi, grandi studi italiani di fondazione italiana, che comunque si sono estesi, ma in questo senso c'è una possibilità di apporto sempre come socio minoritario, perché quello che si teme è che poi il condizionamento del socio di capitale finisca per nuocere all'attività dell'avvocato. C'è un altro passaggio che volevo segnalarti e segnalare agli ascoltatori. Da domani aumenta la trasparenza, deve aumentare la trasparenza nei rapporti con le compagnie di telecomunicazioni. Ah, guarda, quello veramente, allora, sarà un terreno molto divertente fare, sul quale... Sì, perché se dovete cambiare operatore, passare da un operatore di telefonia mobile o di internet o di telefonia fissa e quant'altro, ecco, allora ci sono degli obblighi di trasparenza. apparenza maggiorata. Allora, non anticiparci niente, perché questi sono terreni che piacciono molto alle associazioni dei consumatori, che daranno battaglie e vigileranno prossimamente affinché tutti i soggetti interessati a questi cambiamenti vadano ad ottemperare rigorosamente alle novità. Lo farà sicuramente l'Unione Nazionale Consumatori. Salutiamo l'avvocato Massimiliano Dona, che ne è presidente. Buongiorno, avvocato Dona, ben trovato. Avvocato anche, quindi magari interessato pure alle norme che riguardano i professionisti, anche se lui di lavoro fa altro. Benvenuto e grazie. Ciao Deborah, buongiorno a tutti voi. È la prima associazione dei consumatori nata in Italia. Ricordiamo che Vincenzo Dona, il papà di Massimiliano Dona, è stato il padre del consumerismo italiano. Mi piace sempre ricordarlo, perché insomma ci grazie. Sono state tante lotte portate avanti da questa organizzazione, ma anche da tutte le altre, e voi siete sempre molto attenti alle novità introdotte dalle leggi sulla concorrenza, anche se quest'ultima ha tardato un po' ad arrivare nel nostro ordinamento, perché per voi da qui in avanti partiranno adesso ovviamente tutte le attività di vigilanza, come dicevo prima, sull'ottemperanza dei soggetti appunto chiamati a rispettare le prescrizioni e le norme nuove. È un provvedimento importante perché interviene nella vita di tutti i cittadini consumatori, clienti di aziende, risparmiatori e professionisti. Avvocato Dona, i temi più importanti che arrivano dalla norma che entra in vigore domani, secondo voi quali sono gli aspetti più interessanti da segnalare rispetto a questa norma sulla concorrenza, che si è fatta un po' attendere ma finalmente ce l'abbiamo? Ma dici bene Deborah, il nostro giudizio purtroppo è abbastanza critico, dico purtroppo perché concorrenza dovrebbe far rima con tutela dei consumatori, con novità, una parola che tu hai usato più volte ma che, come emerso già un po' dall'introduzione che facevate voi, in realtà è ben poca cosa. Ecco, veniva citato il tema dei preventivi dei professionisti e degli avvocati, norma che già era stata introdotta, che oggi sembrerebbe essere rafforzata, ma a leggere bene la norma, pur con tutte le difficoltà che ne derivano, notiamo un inciso sull'obbligatorietà del preventivo se richiesto dal cliente. Ecco, siamo come al solito il rischio di affermazioni di principio che poi restano nei codici. Te ne cito un'altra, lato che interessa a tutti noi cittadini, quello delle assicurazioni, del caro RC Auto. Anche qui si torna a parlare di scatola nera e di sconti riconosciuti a chi installa la scatola nera. Anche questa non è una novità, ne parliamo ormai da diversi anni. E a quanto ammontano, questa è la domanda poi più importante, questi sconti? Sarà determinato nei prossimi mesi? Devono essere significativi, ecco, ma vedi, in queste parole così altisonanti per certi aspetti si cela il rischio che poi la concorrenza resti sulla carta. Questa legge l'abbiamo attesa quasi 3 anni ed è una legge annuale, quindi tutti gli anni l'Italia dovrebbe dotarsi di un provvedimento sulla concorrenza. Il rischio, se attendi 3 anni, per essere molto concreti, è che poi ci sia di tutto in questi 190, quasi 200 commi, tra prescrizioni di principio, piccole modifiche, si perde poi l'essenziale, perché a me piacerebbe, vado proprio al sodo, che una legge sulla concorrenza si occupasse di liberalizzare determinati settori. Quante volte abbiamo parlato ad esempio del trasporto pubblico e di Uber? Ecco, questa legge cosa fa su un tema così importante, che ha sollecitato le proteste, in parte giustificate, in parte no, dei tassisti? Nulla, rinvia a successivi approfondimenti. Sì. Quello è un tema divisivo quasi quanto i vaccini. Lo so, ma se prima o poi non si decide qualcosa, non si entra nel merito, non si accetta anche la novità tecnologica e il digitale, nel rispetto chiaramente di chi già fa il suo mestiere. Cioè, trovo veramente che il rischio sia di festeggiare qualcosa, per carità, dopo 3 anni di attesa, anche fosse solo una scatola, siamo qui almeno a prenderla per buona. Ma poi dobbiamo vedere cosa c'è dentro questa scatola. E come ti dicevo, il giudizio è critico. Poi forse parliamo, magari qui l'approfondimento è necessario, del mercato dell'energia, perché altro tema, bollette elettriche, che ci riguarda da vicino e sul quale questa legge invece finalmente dice una parola che vediamo se è accettabile, se è garantita per i consumatori. Avvocato Dona, me la mette su un piatto d'argento questa riflessione, perché piacerà moltissimo al prossimo ospite, che è il professor Carlo Scarpa, ordinario di economia politica all'Università di Brescia, oltre che collaboratore della Voce.info, un grande esperto di politica energetica del nostro paese, grande appassionato di questi argomenti, oltretutto perché ovviamente li conosce molto bene, credo che possa condividere il giudizio fornito dall'avvocato Dona poco fa. Professor Scarpa, buongiorno anche a lei, buon rientro dalle vacanze. Grazie mille, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Eh sì, allora, qualche settore insomma poteva essere colpito un po' di più, ma c'è sempre la mancanza di coraggio nell'intervenire in maniera più incisiva su qualche comparto, forse a volte anche poca conoscenza, attività di lobby non tanto incisive, no? Che cosa le piace di questo provvedimento di cui lei ha scritto tanto sul sito della Voce, dicendo si chiama legge annuale per la concorrenza, ma insomma ha stentato a vedere la luce, ce l'abbiamo finalmente, e visto che si sono presi così tanto tempo, forse qualcosa di più poteva essere fatto, no, professor Scarpa? Il problema è che, allora, comincio a dire, la cosa che mi piace di questa legge sulla concorrenza è che è stata approvata. Di contenuto parliamo fra un attimo, però è importante che finalmente sia stata approvata, che sia passata al vaglio parlamentare, non sia stata totalmente impallinata. Purtroppo il fatto che ci abbia messo tanto ha consentito tantissime manovre che hanno abbastanza depotenziato il provvedimento rispetto a quello che poteva essere all'inizio e quello che effettivamente era all'inizio. Sono stanno a ripercorrere tutti i cambiamenti che sono stati fatti nei vari palleggiamenti da una camera all'altra prenderebbe troppo tempo, però effettivamente le lobby in questo periodo hanno lavorato molto bene, purtroppo. Dico purtroppo perché erano lobby volte a limitare una serie di conseguenze del testo iniziale. Detto, non è che questo testo stravolga nulla. Giustamente si è detto che sull'assicurazione si poteva fare di più. Ma sì, più o meno si interviene sempre nei soliti campi, no? Aggiungendo come dire, degli aspetti mancanti rispetto ad interventi già fatti in precedenza, sì. No, Mauro? È così, Deborah, perché io chiedo conferma anche ai nostri due esperti. Quello che si ha, l'impressione più forte che si ha leggendo questa legge sulla concorrenza è che poi si sia preferito, o forse anche per necessità di compromessi in Parlamento, ci sia attenuti più che altro a puntualizzare alcuni ambiti, specialmente per le parti a accesso a efficacia immediata. Ad esempio penso al fatto che da domani non possono più le banche, le assicurazioni farci pagare, se hanno un servizio telefonico di assistenza, di più che la tariffa urbana. Questo è immediato, si fa subito. È un pezzettino però, se volete, di concorrenza, è un piccolo tassello, mentre su grandi temi, lo diceva già l'avvocato Dona e credo che il professor Scarpa sia d'accordo, rinviamo, cioè demandiamo, arriverà la parte del testo dell'energia elettrica, mi sembra un settore in cui poniamo le basi, ma poi di concreto da domani succede poco. Mi sbaglio, professor Scarpa? No, è vero, tutta la partita sull'energia in particolare si comincia a giocare da domani e credo tuttora con le idee molto molto poco chiare. Sarà un dibattito molto complicato, molto, molto difficile, molto tecnico, che sicuramente sforerà nella prossima legislatura, almeno per salvo miracoli ai quali credo abbastanza poco. Cosa ci si aspettava in questo campo, professor Scarpa, tanto per dare qualche suggestione pratica ai nostri ascoltatori che sono direttamente interessati all'argomento, visto che le bollette le paghiamo, sono assolutamente oscure, piene di tasse e poco paghiamo invece per i nostri consumi, quello già l'aspetto che ci fa imbufalire, quindi il nostro interesse è quello che le nostre bollette siano più leggere e che il mercato di riferimento sia un po' più chiaro, ma questo è veramente un miraggio, direi. Ma allora, il mercato di riferimento è oggettivamente complicato perché lo abbiamo organizzato in questo modo, perché invece di dire esiste un servizio che si chiama il servizio di fornitura elettrica, abbiamo detto esiste un bene che si chiama elettricità, esiste un altro servizio che è il servizio di riserva, esiste un servizio ancillare, esistono tante cose, abbiamo spezzettato la produzione del servizio in tanti segmenti, che è stato giusto fare, però alla fine purtroppo questo ti conduce a una complessità che inevitabilmente si riflette in bolletta, perché quando dicono facciamo trasparenza, quindi diciamo esattamente quanto si paga per ciascun segmento, beh, ci si trova una sfilza di cose che il tecnico capisce, il consumatore finale temo fatichi no, un po' in no, realtà. Il consumatore finale no, no. Professor Scarpa, ecco. È così. Su questo sono assolutamente d'accordo. Quello che fa questo provvedimento, allora, è una delle cose più importanti e più controverse, secondo me, di tutto il disegno di legge, perché dice da una certa data, da qui a un paio d'anni, sparisce la tutela pubblica del consumatore finale, quindi non esisteranno più prezzi regolamentati per l'energia. Il consumatore finale dovrà per forza rivolgersi al mercato libero. E questa è una cosa sulla quale, molto curiosamente, se ci si pensa, sia l'Associazione dei consumatori sia tutte le maggiori imprese sono molto d'accordo, sono molto felici di questa cosa. E quando vedo tutta questa unanimità mi chiedo che cosa sta succedendo, perché forse o non ho capito nulla io. Fatelo voi il movimento trasversale che si oppone alle novità, professor Scarpa, visto che tutta questa... Ma sull'energia elettrica secondo me mica tanti. Infatti il provvedimento sull'energia elettrica aveva alcuni detrattori, detto francamente tra questi anch'io, che dubitano moltissimo che questo provvedimento possa sortire degli effetti positivi per i consumatori. Cioè, secondo me è evidente che l'effetto abbastanza immediato sarà un aumento dei prezzi, di questo sono piuttosto convinto. Però tutti gli altri invece sono convinti diversamente, per carità, rispetto anche alle posizioni dei consumatori che invece credono che questa liberalizzazione porterà a una diminuzione dei prezzi. Io fatico a capire come questo possa avvenire, però alla fine voto sul fatto che fosse una buona idea, e secondo me, quando vedo Enel e tutti i grandi venditori di energia che sono contenti di questo provvedimento, fatico a credere che ne vengano penalizzati. Ecco. Allora, professor Scarpa, si fermi lì. Non è il traffico, vuoi lanciare lo stesso questa pausa? Posso dire pubblicità? Guarda, tanto devi organizzarti in qualche maniera, perché ti capiterà di dover lanciare o l'uno o l'altra prossimamente. Allora, signore e signori, cari ascoltatori, pubblicità. Ma cos'è quest'estate? Ah, quest'estate 2017 ci consegna un risultato che ha di l'incredibile, un parto che è stato difficilissimo, ma con tanti dolori anche, è stato finalmente, è nato finalmente il provvedimento sulla concorrenza, entra in vigore domani. Tra l'altro, Mauro Meazza, stavamo adesso, archivierei il capitolo energia che è molto complesso, ringraziando del suo contributo il professor Scarpa, che adesso interpelleremo anche sugli altri ambiti di intervento, ma stavo ripensando alle lenzuola di Bersani di qualche anno fa, che scompaginarono veramente il mondo del commercio, il mondo bancario, finanziario, assicurativo. I consumatori erano strabiliati rispetto a quella mole di interventi. La portabilità del conto corrente la dobbiamo a lui. Mi ricordo quante puntate ho fatto all'epoca di Salvadanaio su quell'argomento. Adesso, diciamo, è diventata prassi rendere i settori economico-produttivi più competitivi con questo provvedimento, ma sicuramente a lui si deve molto. Beh, diciamo che quello è e ancora non è un giudizio politico, perché non vorrei che adesso mi cominciassero ad arrivare i soliti commenti. Subito presa di mira. Esatto, però guarda, PD della situazione. Anche noi oggi ci rifacciamo alla legge Bersani, cosiddetta, perché poi prese il suo nome, per dire che si interviene ancora in materia di recesso, di cambio operatore, semplificando per la parte che riguarda ad esempio le compagnie telefoniche. Quindi avremo un diritto di recesso migliore, si potrà fare anche in negozio da domani, è una cosa subito efficace. Avremo una trasparenza maggiore nelle bollette. Questo ancora, come dire, una scia, una cosa sulla scia di quelle liberalizzazioni di 10 anni fa, se non ricordo male, 10-11 sì, esatto. anni fa. Avvocato Dona, Unione Nazionale Consumatori, il settore delle telecomunicazioni è veramente uno dei campi preferiti sia dal provvedimento della concorrenza ma anche dall'antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che multa in misura molto frequente, con una frequenza molto fitta, appunto, le compagnie, generalmente per le pratiche commerciali scorrette. In realtà quello è un campo molto delicato e molto difficile di convivenza con i consumatori, perché adesso abbiamo anche tutto il tema delle offerte che arrivano con il marketing aggressivo, che riguardano non solo le telecomunicazioni ma anche tutti gli altri campi, anche la stessa energia, l'elettricità ed altri settori. Allora, è sufficiente l'intervento in questo campo della legge sulla concorrenza, o anche lì, insomma, se si prende quell'ambito bisognerebbe ribaltarlo da cima a fondo, in realtà, nell'approccio con i consumatori? Oppure tutto sommato stiamo vivendo una stagione di soddisfacente convivenza con il settore delle TLC? No, vedi Deborah, quello che la legge sulla concorrenza fa anche in questo settore non è nulla di più di quello che sarebbe dovuto da un mercato trasparente. Cioè, ci stiamo accontentando, anche voi li avete citati come due diciamo così approdi, se non altro perché entrano in vigore da domani, di norme sulla concorrenza che stabiliscono che io posso esercitare il diritto di recesso da un contratto anche nella telefonia semplicemente nello stesso modo con il quale ho fatto il contratto. Allora vi chiedo e provoco i nostri ascoltatori, ma cioè, è tema di concorrenza questo o è tema semplicemente di rispetto? Per cui se io consumatore stipulo un contratto al telefono, ho o non ho il diritto di disdirlo ugualmente al telefono? Esatto, c'è bisogno di un altro grimaldello. Se lo stipulo dicendo un sì, non ho diritto a sciogliermi da quel vincolo nella stessa maniera. Lo sai cosa succedeva fino ad oggi? Perché entra in vigore da domani questa legge, che bastava un mio sì telefonico per cambiare un piano tariffario e addebitarmi nuovi costi, poi per recedere devo inviare una raccomandata. Cioè, chiaramente non possiamo chiamare concorrenza questa. Questi sono interventi di bassissimo profilo, per carità, viste le scorrettezze che la stessa antitrust, che tu giustamente citavi, ha più volte rimarcato, mi sembra il minimo, ma non dovrebbe neppure intervenire una legge. Alla mia azienda, della quale sono cliente, ho diritto di chiedere questo stesso rispetto. Il contratto è un contratto che stipulo in maniera velocissima, telefonicamente, con un clic sul mio smartphone, ho diritto di interromperlo, certo, con le stesse modalità. E ancor prima, lì da studio, indicavate come intervento di questa normativa il divieto per una banca, per una compagnia di assicurazione, di farmi pagare una tariffa a sovrapprezzo se uso il telefono per dialogare con la mia azienda. Ma anche qui è tema di concorrenza, mi sembra il minimo, e anche l'antitrust l'ha più volte stabilito, che non mi facciano pagare delle tariffe a sovrapprezzo se ho bisogno di un call center per dialogare con il cliente. Insomma, davvero siamo ad una presa in giro dell'opinione pubblica se chiamiamo questi interventi sulla concorrenza. E scusami, torno un attimo sull'energia per rassicurare il professor Scarpa. L'Unione Nazionale Consumatori è contro questo intervento di liberalizzazione, che non ha nulla a che fare con la concorrenza, è un regalo, l'abbiamo detto più volte sul nostro sito consumatori.it, trovate anche le ragioni più argomentate, è un regalo ai grandi operatori. Se oggi nel mondo dell'energia i primi tre operatori possiedono il 70% dei clienti, è chiaro che di quale concorrenza stiamo parlando. Se oggi, e lo dice, ci dà man forte l'autorità dell'energia, e gli unici che si sono opposti a queste liberalizzazioni siamo noi dell'Unione Consumatori, l'autorità dell'energia e l'antitrust, quindi non mi sembra poco, contro le aziende e qualche altra associazione connivente. Se l'autorità dell'energia ci dice che oggi nel mercato tutelato paghiamo di meno che non nel mercato liberalizzato, è chiaro che non possiamo che opporci, nostro malgrado, ad un intervento di liberalizzazione nel settore delle bollette elettriche. Avvocato, lei ha perfettamente ragione nel lamentare, come dire, la mancanza di afflato strategico, mi viene da dire, sulla concorrenza. Esatto, sono molto poco furbe le tuttavia compagnie. Il nostro tentativo anche sul Sole 24 Ore in questi giorni è stato quello di dire vabbè, vediamo un pochino che cosa abbiamo portato a casa dopo 900 e passa giorni. Sono d'accordo con lei, in condizioni normali il fatto di dire non mi devi far pagare un sovrapprezzo se ti chiamo perché ho bisogno del tuo aiuto, essendo io un tuo cliente, dovrebbe essere normale. Però che vogliamo dire, c'è pure bisogno di queste norme. Anche io stesso mi sono stupito nel leggere il dettaglio di alcuni interventi di questa legge sulla concorrenza, che sono quasi cavillosi nel loro, esatto, nel loro intervento qualche volta. Fare lobby insieme, un obiettivo potrebbe essere quello di chiedere per il futuro, accontentandoci, come giustamente anche noi siamo degli eterni ottimisti, di quello che ci è dato per quest'anno, ma per il futuro la legge sulla concorrenza dovrebbe essere settoriale, cioè si decide di intervenire sul trasporto pubblico di persone, si decide di intervenire sull'online, si decide di intervenire sulle telecomunicazioni, sull'energia. Non è pensabile che ci sia del buono in una legge, in un articolo con 190 commi, e questo è un fatto, purtroppo, non è demagogia. Un altro campo di intervento che pure interessa direttamente gli ascoltatori, ma in realtà poi in questo formato, se non ricordo male, io avevo già visto che più o meno doveva funzionare così. Detto questo, anche in questo caso la legge sulla concorrenza è dovuta intervenire mettendo nero su bianco proprio i passaggi dettagliati di quello che si deve fare. Faccio un mutuo, stipulo un prestito con una banca e generalmente la banca chiede anche di associare al finanziamento l'assicurazione a tutela naturalmente del mancato adempimento del pagamento delle rate. Allora, c'è stato anche il grande dibattito e contrapposizione anche in passato tra TAR del Lazio, non mi ricordo quali altre istituzioni, che avevano avuto modo appunto di dire la loro su questo tema. È obbligatorio per il consumatore portarsi l'assicurazione a tutela del mancato adempimento di questo impegno finanziario o no? E soprattutto, quale assicurazione ti deve portare? Quella che ti propone la stessa banca il giorno in cui tu stipuli il reddito e il contratto appunto di mutuo, oppure te ne puoi portare una per conto tuo? Mi pareva di ricordare che già avessimo il diritto di portarci l'assicurazione di nostro gradimento, Mauro, eppure la legge sulla concorrenza l'ha dovuto ribadire. Ma perché qui, mi spiace, è un assist ancora per l'avvocato Dona, ecco. Però qui quello che si voleva dire, infatti leggendo il comma è abbastanza chiaro, è che abbiamo diritto di portarci la nostra personale polizza, ma la personale polizza deve avere i requisiti che sono quelli poi richiesti dalla banca. Eccoci. Quindi insomma una specie di precisazione, di chiarimento interpretativo. E quindi sembra, se la banca dice no, in realtà non è questa la copertura assicurativa che mi soddisfa, garanzie, quindi guarda, casualmente ce ne ho una pronta in casa. Che ma cosa vuole, dottore? Perché vuole andare in giro ancora a cercare? E beh, potrebbe anche succedere così. Allora, un conto è il marketing, un conto è la concorrenza. Qui la disposizione appunto della legge concorrenza è quella di, se non altro, mettere in chiaro che non c'è l'obbligo di accettare. Poi, se per comodità, per pigrizia, vogliamo accettare la proposta che ci viene fatta dall'istituto di credito, da chi ci eroga il prestito, certo, va bene, e allora accettiamolo. Questa parte, sì, lo so che fremi perché vuoi lanciare. Perché qui non c'è concorrenza di sorta, Deborah. Vabbè, allora la domanda te la faccio dopo, vai. Allora va bene. Traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia. Sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Ma cos'è quest'estate? È l'estate che ci consente di portare a casa la legge sulla concorrenza, oltre alle tante altre cose delle quali abbiamo avuto il piacere di parlare in questi giorni. Allora, tra l'altro, Mauro, non ho invitato i nostri ascoltatori ad intervenire, ma l'hanno fatto di loro spontanea volontà all'800 24 00 24, ma oggi vi così anticipiamo un po' per sommi capi quello che contempla questa norma, ma poi nel dettaglio, settore per settore, faremo le pulci a partire da lunedì prossimo. A due di denari, a certo, di denari, perché saremo coppia fissa per la gioia, speriamo, degli ascoltatori, la nostra sicuramente. Esattamente, tutti i giorni dalle 11 alle 12, e quindi un focus molto preciso ogni giorno sui temi del risparmio, della finanza personale, sui temi del fisco, tutto ciò che attiene alla vostra vita economico-finanziaria, che è un po' complicata, ma anche con un linguaggio leggero la si può alleggerire per i nostri ascoltatori, no Mauro? Che ne è dici? Così, è così, infatti lo spirito nostro, ma anche quello di questa mattina, anche parlando della legge concorrenza, è proprio quello di andare a vedere, vabbè, cosa possiamo portare a casa. Certo, si poteva fare meglio, però, come dice un proverbio un po' antipatico, l'ottimo è anche a volte nemico del bene. Allora forse un pochino di bene qui c'è. Sono d'accordo con l'avvocato Donna, ci diceva non ce n'è tantissimo, ce ne voleva molto di più. Sono d'accordo, e lo scrive anche il Sole 24 Ore questa mattina, si vorrebbero interventi non solo annuali ma settoriali, perché questo probabilmente circoscriverebbe gli argomenti in campo e magari si riuscirebbe a essere, certo, un po' più efficaci. Detto questo, in tutti questi anni di legge sulla concorrenza, negli anni passati si è presa questa norma un po' meno tempo di quello che è stato necessario per produrre questo risultato. Tra l'altro, siccome tu sai, e lo imparerai sulla tua pelle nelle prossime settimane, che ci sono molti ascoltatori appassionati di riferimenti legislativi molto precisi, che numero ha questa legge, te la ricordi al volo? No, devo guardarla. Vai a cercarla al volo, aspetta, è la legge la 124 del 4 agosto. Esatto, rispetto appunto, stavo dicendo, agli anni passati, adesso guarda, per farti ricordare, non mi sono scordato il discorso che stavo facendo. No, però facendo. Posso dire agli ascoltatori una cosa, se volete avventurarvi nella tua Gazzetta Ufficiale, fate molto bene, tenete presente quello che abbiamo detto, è una legge che è un serpentone di commi, certo, 192 commi, esatto, uno dietro l'altro, a volte con quei richiami normativi che si fa, certo, fatica a comprendere. Intanto mi sono ricordata quello che volevo dire, che ci siamo lasciati prima il tema del rapporto banca, consumatore e cittadino. Sicuramente, questo voglio chiedere un commento al professor Scarpa, ci piace ancora battagliare contro le banche, professor Scarpa, ma è certamente un terreno nei confronti del quale si è intervenuto tantissimo negli ultimi anni. Forse può giudicarsi la coppa del settore più bersagliato da novità, misure, norme, un po' perché è stato anche il protagonista di questa grossa crisi economico-finanziaria nella quale ancora stiamo, contro la quale ancora stiamo lottando, un po' perché naturalmente sono brutti e cattivi e ci piace sempre definirli così, ma di sicuro di provvedimenti ne hanno presi, professor Scarpa. Questo non significa che questi provvedimenti abbiano portato a casa e ci abbiano consentito di ragionare oggi con un settore particolarmente competitivo, sicuramente molto di più dell'ambito energetico di altri settori. Ma non so bene se le banche vincano rispetto alle telecomunicazioni, insomma è una gara dura. Credo che sì, evidentemente la perfezione non è di questo mondo, per carità, però devo dire che rispetto ad anni fa il rapporto consumatore al centro bancario è cambiato in modo assolutamente radicale. Il fatto che si possa cambiare conto in modo abbastanza agevole, si possono praticamente spostare tutti i rapporti in modo estremamente facile, se guarda semplicemente quello che avveniva 5-10 anni fa, l'idea di un cambiamento importante, poi chiaramente un cambiamento che deve ancora affinarsi, però appunto ormai stiamo parlando di affidamenti, non credo più che l'assenza di concorrenza in questi settori possa essere vista come un problema gravissimo. Possono essere dei dettagli da mettere a posto, ma non tanto di più, credo. Mm-hmm, certo. Un altro settore che mi ha molto incuriosito nella misura in cui il provvedimento Mauro è intervenuto è quello delle strutture alberghiere, le strutture ricettive. Allora, un albergo tradizionale, io posso chiamare, fare una prenotazione per naturalmente scegliere la camera che mi piace in un determinato periodo di tempo, posso scegliere di andare in quello stesso albergo fruendo però dell'attività dei comparatori online, i vari booking.com e quant'altro. Allora però cosa succede spesso? Che sui comparatori trovo delle tariffe più convenienti rispetto al sito online dell'albergo. Sai che non ho capito bene la legge sulla concorrenza come interviene? No, sostanzialmente la liberalizzazione è quella che l'albergo può praticare delle tariffe, non è obbligato ad avere le stesse tariffe sul sito, cioè quelle che mette a disposizione dei comparatori, degli aggregatori di ricerca che troviamo su internet, e quelle che ti fa al bureau proprio lì davanti. Quindi c'è una maggiore facoltà di praticare sconti anche alla clientela, non essendo vincolati a quello che è stato. Ma l'avvocato Donna direbbe, ma lo doveva dire anche in questo caso la legge, avvocato? In realtà qui la cosa è un pochino più complessa. Esatto, lei che è l'avvocato si sarà sbizzarrito nella lettura di questi commi questo weekend, me li immagino già. No, la modifica è stata descritta correttamente. Dico, da un punto di vista poi di effetti pratici, la domanda che ci poniamo anche noi con una certa perplessità è questa. È meglio per il consumatore poter trovare sul sito dell'albergo una tariffa migliore, come effettivamente da oggi è possibile grazie alla legge sulla concorrenza, oppure sarebbe stato meglio avere la certezza che sul comparatore si trovava il miglior prezzo? La domanda è molto pratica, nel senso che fino a qualche anno fa, dove non esisteva internet e non esistevano gli aggregatori di prezzo, era molto difficile avere una panoramica chiaramente di tutti i prezzi disponibili in quella determinata località. Decido di andare in vacanza in quel luogo, come faccio a sapere quali sono gli alberghi più convenienti? Poi entra in scena internet con i suoi comparatori, queste piattaforme molto amate, devo dire, dai consumatori. E in una prima fase effettivamente lì si sviluppava la concorrenza perfetta, perché era una sorta di mercato, di vetrina, dove io potevo effettivamente essere certo di vedere i migliori prezzi degli alberghi che si mettevano in mostra. Poi cosa è successo? Che un po' il moltiplicarsi di queste piattaforme, alcune molto furbe, magari selezionavano soltanto determinati alberghi perché con questi avevano degli accordi, un po' la scorrettezza di queste stesse piattaforme che mi facevano vedere un prezzo iniziale ma che poi li evitava magari nelle fasi di prenotazione, ha fatto sì che quello non fosse più il luogo della concorrenza perfetta, e forse ha motivato questo intervento della legge sulla concorrenza che oggi consente agli alberghi di fare un prezzo migliore. Il rischio però qual è? Per questo vi paleso questa perplessità che abbiamo noi stessi nel giudicare questo intervento, che il consumatore non sappia più dove trova il miglior prezzo. Allora forse poteva essere consigliabile mantenere il cosiddetto parity rate, cioè questo obbligo di non mettere online sulle piattaforme prezzi, di mettere il miglior prezzo sulle piattaforme, sugli aggregatori online, e magari l'albergo poteva riservarsi dei trattamenti di favore al cliente, non so, immagino andarlo a prendere all'aeroporto, regalargli un servizio di shuttle piuttosto che non un letto aggiuntivo, facendo comunque leva su quello che è il rapporto personale che secondo me il consumatore deve continuare ad avere, perché dare il messaggio per cui un albergo si prenota solo su una piattaforma non è neppure corretto. Ci sono tanti siti di alberghi che sono molto performanti anche nel descrivere i servizi, e poi il rapporto personale con l'operatore è sempre qualcosa che va preservato anche nell'era digitale. Per questo dico che sono abbastanza in dubbio. Noi abbiamo inizialmente giudicato questa norma addirittura una norma anticonsumatori, perché appunto ci fa di fatto perdere importanza e fiducia nelle piattaforme di prenotazione online. Vediamo cosa succederà da domani. Io spero che gli albergatori facciano buon uso di questa di questo vantaggio che gli ha assicurato la legge sulla concorrenza, e si evitino situazioni di vero e proprio cartello che in passato hanno penalizzato i consumatori che andavano in vacanza, ai quali veniva fatto pagare molto di più rispetto a quando poi è arrivata internet e le sue piattaforme. Allora, ma che cos'è quest'estate? Prima puntata della settimana, ultimo lunedì della stagione, sta andando verso la chiusura, ci sarebbe da dire qualcosa anche su un altro grande campo su cui gli interventi hanno tentato in realtà di farsi più incisivi negli ultimi anni, ma non sono mai riusciti tantissimo ad intervenire molto, appunto il campo delle farmacie, Mauro, ma magari ci riserviamo questo dibattito in un'altra puntata. Che cosa rinvierei la lettura del Sole 24 Ore, ecco. Ma lì la sostanza è appunto un po' similarmente a quello che abbiamo detto per i professionisti qualche minuto fa, quello di un ingresso, di un accesso di soci di capitale. Benissimo. Tanto basti, perché altrimenti dovremmo prenderci anche un altro paio d'ore per spiegare. Esatto, ma avremo tantissime trasmissioni da fare su questi argomenti. Intanto Mauro, grazie, ringrazio Carlo Scarpa e Massimiliano Dona per essere stati con noi. Mauro, io ti rivolgo qua domani mattina, perché il ministro Fedeli, siccome dovevamo rispondere, non abbiamo fatto in tempo perché ci ha dovuto salutare, alla questione degli universitari e dello sciopero previsto appunto nelle università, il ministro Fedeli aveva qualcosa da dire ma ci ha dovuto salutare, rimandiamo le sue dichiarazioni a domattina. Ci ha promesso. Va bene, che a che ora mi devo presentare? Alle 8.30, se vuoi venire prima con il caffè io non ti mando certo via. Va bene, allora devo venire dalle alle 8.30. Alle 10 siamo qua. Ti porto il caffè e con l'obbligo di vaccinazione assolto. Esatto, sei a posto. Bene, grazie, allora è terminata la nostra trasmissione. Buona giornata, domani.